Cristo di Dio, ma allora non mi ascolti, ma chi se la poteva immaginare che si sposavano? Di nascosto, sì, nessuno sapeva niente. Potendo, io lo odio, Potendo, perché è uno straniero. Poi, no, allora senti questa, c'era la nomina di luogotenente, quel posto doveva essere mio. Sai che fa lo straniero? A nominare un certo Michele Cassio, un fiorentino, uno studentello rimbambito che non ha mai visto una guerra neanche da lontano. Dopo tutto quello che io ho fatto per lui, capito? Guerre, rischi, fatiche, di tutto il genere. Sì. Aspetta. Quartier generale. Ah, Bianca, dimmi. Ah, è arrivata? Bene. Portala subito nella loggia per le signore, anche mia moglie, dille che poi la raggiungo. Come non ci vuole andare? E no, via la signora che è un ordine del generale. Insisti, Bianca, siamo in guerra e i turchi possono attaccare da un momento all'altro. Sì. Ma notizie del generale? A dopo. Sì, a dopo. Federico, una notizia fresca. E Stefano è appena sbarcata. E il marito sta ancora lì in mezzo al mare a fare l'eroe. Come ti vuoi ammazzare? Ma finalmente Desdemona è arrivata qui a Cipro, a pochi metri da te, tu. Ma quali capacità? Ma che ti manca? Dipende soltanto da te, tu, Desdemona, te la farai, tutto e basta. Te lo garantisco. Sì. Aspetta. Guardia generale. Agli ordini, comandante. No, sono la tendente Iago, il luogotenente non c'è. Sparite? Ma non le localizzate? Ma sono tornate indietro? No, sono sparite, vabbè. Ma la nave del generale Otello? Ah, è lì. Sì, va bene, sì, appena arriva il luogo della glielo dico. Agli ordini, comandante. Rodrigo, senti, adesso io ho poco tempo. E allora, siamo poi fatti, tu portare i soldi? Bravo. Tu adesso, quando esci dalla locanda, ti metti una barba finta e un cappello. Poi portate anche un po' di gioielli. Bravo, perché quest'amore tra Desdemona e Otello non durerà lungo. No, lei si stuferà di lui e vorrà passare un corpo più giovane. E lì ci sarai tu, te lo garantisco. Sì, quindi i soldi che hai portato sono abbastanza. No, fatele mandare altri. No, tu Desdemona te la farai, però riempiti di soldi. I soldi che puoi, fidati, poi io ti chiamo e ti dico quello che devi fare, però riempiti di soldi, capito? Sbrigati. Sì, va bene, poi ci risentiamo. Luogotenente, è arrivata Desdemona. Sì, l'ho saputo, l'ho fatta convincere ad andare nel suo alloggio, voleva venire qua. Sono stato io a convincere, Iago, non ne voleva sapere. Hai insultato Bianca non so quante volte, tua moglie che la guarda terrorizzata. Ci mancavano solo le donne a fare la guerra qui a Cipro. E poi ha chiamato anche il comandante della capitaneria e la flotta turca è sparita. Sparita? Così dice, forse hanno invertito la rotta. Ma potrebbe essere. Non ho mai visto una tempesta così, le onde sono alte come le montagne. E forse i turchi non hanno trovato una baia dove riparare. Bisognerebbe dirlo al generale. Ma le comunicazioni sono ancora interrotte. Lui è voluto restare in mare per dirigere le operazioni di guerra a largo del porto. Vuoi un caffè? Grazie. Che coraggio quell'uomo. Vabbè, sì, il generale Otello è veramente da invidiare. Già. Anche se non è dei nostri. In che senso? È straniero. Ah, certo. A me sorprende questa ragazza, di una delle famiglie più potenti di Venezia, vicino a lui. Non sapevo neanche che erano sposati. Non lo sapeva nessuno, neanche il padre. Infatti quando l'ha saputo. Perché io ho sentito delle voci in giro. Che è successo? Il padre non conosce più come figlia, tu capisci fino a che punto si è inoltrata questa ragazza? Una che poteva avere tutto, molla tutto, così, per avere lui, uno straniero. Ma quando si hanno chiamato te, loro si erano appena sposati? Sì, è successo tutto ieri. Loro si sono sposati di nascosto e subito il Senato ha chiamato Otello qui a Cipro per difendere Venezia. Per questo lui si è portato dietro. No. Perché quei due, te lo dico io, hanno avuto una crisi. Io non c'entro niente! Bianca! Parlateci voi perché io non so più che cosa fare, non posso mica legarla. Che succede? Ma signora del tema, non vuole sentire nessuno e fa come vuole. Ah, tua moglie pure svenuta. Che figlia? Mi cazzo! Ma stai, ma sopra! Attenzione! sono arrivato questa mattina. Benvenuta, signora. Questa mattina? Sì, così ha voluto il mare. Ma come mai mia moglie è svenuta? Ha vomitato per tutto il viaggio. Credo si sia messa paura. La tempesta è stata molto dura. Ci sono anche dei feriti. Mi date una coperta e anche un asciugamano. Però c'è qualcosa di caldo per Emilia. Sì, già. Notizia di mio marito? Ancora in mare, signora. Crede ancora di dover fronteggiare il nemico, ma le navi turche potrebbero essersi ritirate. Comunque, sono sparito. Ma che stai dicendo, Cassio? Sì, non riusciamo a metterci in contatto con lui. Quindi lui non ne sa niente? No, sta lì ancora in mezzo al mare. Sto svegliando. Emilia. Emilia. Va bene, voi occupatevi di Emilia, io vado giù al porto. Non potete, signora. Perché no? L'ordine di occuparmi di voi. Siete la moglie del generale Otello e io ho la responsabilità della vostra sicurezza. Non trattarmi come una bambina, Cassio. Ci conosciamo da anni. Otello è mio marito in quanto moglie del generale. Decido io. Signora. Basta, basta. Ma perché fa così? Perché? Emilia, ma io non capisco. Lei vuole morire, è stato un inferno. Ma che è successo? Voleva seguire il generale in mezzo al mare e le circondi a terra. Ha costretto il comandante della nave a stare in mezzo alla tempesta. Non correvamo pericoli. Potevamo morire tutti. Siamo stati solo fortunati, ho avuto paura. Eravamo vicini a Otello, non correvamo rischi. Camminiamoci tutti, siamo in guerra. Voi non potete stare qui. Bianca, per favore, prendete. Voi chi? Voi donne, signora, vi devo far portare gli alloggi. Ma stiamo scherzando? Che cos'è? Eh? Un sequestro, non posso decidere più nulla, eh? Siete la moglie del generale, ci sono dei regolamenti militari precisi. E dov'è che dorme il generale? Qui sopra. Ed è qui che dormirò pure io. Non potete. No, veramente io vorrei stare qui. No, voi non siete militari, voi siete le mogli dei militari, siete donne e quindi dovete dormire nella loggia esterna al quartier generale. Che cosa vuol dire voi siete donne? Che vuol dire? Signore, questo è un lavoro duro, faticoso, ci sono delle donne, però soltanto per delle mansioni di ufficio. Io tra l'altro non sarei d'accordo neanche su questa cosa, però lasciamo stare. In ogni caso, nel quartier generale possono dormire solo uomini. Emilia, ma tuo marito parla sul serio. Iago non penserà che le donne... Ma non siamo qui a cambiare le leggi, siamo qui a farle rispettare. E questo è il mio compito, lo vedo io personalmente. Piuttosto mi faccio incarcerare. Bianca, no, non possiamo... Basta, io voglio notizie di Otello. Tu, ora come la dice, vai col porto e guarda le notizie. Posso dare ordine a un'altra donna e vi dato pure questo, eh? Voglio sapere se mio marito è arrancato in mare, vediamo se me lo impedite. Tu, vai! Signora, io sono un militare. E quindi? E quindi rispondo solo ad altri militari. Va bene, ci vado io. Pensavo là, andare giù al molo a guardare il mare, non farà entrare prima tuo marito. Fino a risvegliare i morti. La mia nave deve scalare montagne di mare da lassù in cielo, risprofondare giù all'inferno. E se dovessimo morire ora? Sì, ora. Sarebbe questo il momento più felice. Sì, più felice. È così perfetta questa mia gioia. Io ho paura di non trovarne mai più un'altra uguale. Non esistono limiti alla nostra gioia. È troppo. Sì. Mi soffoca tutta questa gioia. È troppo, sì. Signori, generale, la flotta turca è in fondo al mare, la guerra è finita. Generale, Iago, questa volta siamo stati fortunati, il mare ci ha aiutato. Desdemona, finalmente possiamo festeggiare il nostro matrimonio, lontano da Venezia. Signori, come nuovo governatore dovrei fare un discorso, ma come Iago ben sa, non è il mio forte. La parola ricamata non fa per me, sono sui campi di battaglia da quando avevo 7 anni. Bene, questa sera qui a Cipro ci sarà una grande festa. Per la vittoria. Dunque, i locali ne saranno aperti, il coprifuoco è sospeso da adesso che ne sono, Cassio? Le 5, generale. Dalle 5 fino alle 11, piena libertà di divertirsi, ognuno festeggerà come vuole. E le donne dormiranno qui. Signore, a proposito di... Sì, va bene, Cassio. Allora, tu ti occuperai della sicurezza militare, mi raccomando, tutto deve rimanere nei limiti della discrezione. Iago mi darà una mano, ma io sorveglierò personalmente. Bravo, Cassio. A questo punto, signori, noi ci ritiriamo. Generale! Sergente Bianco, mi pare di distanze. Non ci posso credere, Iago, è finita la guerra. Neanche io. Sai che cazzo, per l'occasione ho un vino speciale di qui. Non stasera, Iago. Perché no? Lo sai che non reggo il vino? Ah dai, che ti ho visto bere tante volte. Sì, mi piace tanto, Iago, ma non lo reggo. Soltanto un bicchiere. No, Iago, se comincio con uno io non mi fermo più. Ma è finita la guerra, si festeggia il matrimonio, non viene neanche un bicchiere, è veramente da maleducati. Va bene, Iago, ma solo uno, eh? Prego, anzi, controllami. Sì, certo, io controllare il luogotenente, non scherziamo. Alla nostra. Alla nostra. Hai visto, Cassio? È finita la guerra? Sì, certo, però dico, hai visto... Che cosa? Ma come si sono salutati, no? Subito in camera, te l'avevo detto, no? Che donna. È una ragazza, eh? È difficile, però... Mi che ti farà diventare completamente matto. Anche delicata. Delicata? Ma tu gli hai visto gli occhi, che sembra sempre che ti provo. Ma sono anche pieni di innocenza. Ma quale innocenza, cazzo? Ma tu l'hai vista bene, però devi fare l'alza bandiera. Dobbiamo andare, Iago. Sì. Senti, nel caso, scusami, io devo fare una... Telefonate in capitaneria, tu intanto vai avanti, va, porta la bottiglia. Vai, vai. Iago. Vai, vai, ora ti raggiungo. Vai, vai, vai. Rodrigo? Sì, sono arrivati, sì. Però io ho già due notizie pazzesche. La prima è che è finita la guerra. Sì, i turchi sono affondati nella tempesta, è andata così. L'altra è brutta. Desdemona è chiaramente innamorata di Cassio. No, l'ho vista, è evidente. Ha puntato Cassio, ti dico, ma certo, ma quella è giovane, no? Tipo sciolto, fa finta di essere ingenuo, distratta. Tutte quelle cose che piacciono alle ragazze di oggi, non gli manca niente, micidiale. Una salta? Guarda, di quanto dovevi stare qui poco fa, prima che arrivasse il generale. Cassio le teneva una mano dietro la schiena, avevano le labbra che si sfioravano e si sono fermati. Rodrigo, perché c'ero io? E basta. Ascoltami. Allora, questa sera si festeggia. E Cassio è di turno con il corpo di guardia e io starò lì con lui. L'ho già fatto bere un po' e adesso insisterò ancora. Tu raggiungimi subito lì e appena ti faccio un cenno con la mano, tu inventare qualcosa, prendere in giro, digli che come luogotenente è ridicolo, eh? Basterà questo, perché lui quando beve si arrabbia per niente, così facciamo scoppiare una bella rissa, eh? E poi ricordati che devi andare a suonare l'allarme generale. Sì, te lo indico io. Dai, sì, te lo dico, sto arrivando, dai che si festeggia. Let the lazy ocean house the shore. All the clouds. oggi. Enemy with the stone, non si fa il po' andare artifici. Iago, cosa è successo? Niente, cazzo, siamo ubriacati, ha sparato a Montano. No, sì. È stato lui? Sì, non so come fare con il generale, perché lui mi chiede, ma non deve sapere niente. E glielo starà dicendo Montano, sono qui fuori a parlare. No. Montano è arrabbiatissimo, eh. Non vuole andare neanche in ospedale. Ma io Montano non gli ho fatto nulla, era quell'altro. Vieni lì, Biancabella, si fa vedere al diavolo di parlare di soldi. Cazzo! E non gli basta mai. Ma quanto ho bevuto? Oggi volete tutti farmi diventare matto, nessuno che vuole parlare. Ma che cosa state facendo? Montano dice che tu sai, che il presente ha visto tutto. Parla, diavolo! Signore. Che cos'è questa licenza? Qualcuno ha ferito a morte un'autorità di Cipro. Montano, l'ex governatore. Parla, soldato Iago! Generale, non ho capito la domanda. Non dice a te. Tu chi sei? Sergente Bianca, signore. Perché sei qui? Sai qualcosa di questo incidente? No, signore. E allora, vai. Io voglio sapere come è cominciata questa storia. Chi la provoca? Chiunque sia il colpevole, fosse anche mio fratello gemello, verrà immediatamente rimosso da qualsiasi incarico. Santo cielo. Una città ancora stravolta dalla guerra, con la gente con il cuore pieno di paura, in piena notte, nel cortile della guardia di sicurezza, fare una rissa in preda all'acqua. Ma io dico, cazzo, giocarti così la reputazione è mostruoso. Iago, sei ubriaco anche tu? No, signore. E allora dimmi chi ha cominciato. È un ordine. Signore, è andata così. Io e Montano stavamo chiacchierando e ecco che arriva un tipo che grida aiuto. Chi era questo? Non lo so, signore, era un tipo con le capelle e la barba. E Cassio che gli correva dietro gridando t'ammazzo. A questo punto Montano si mette in mezzo, cerca di calmare Cassio. Io corro dietro a questo col capello e la barba, signore, perché voleva suonare l'allarme. E non ho fatto in tempo e mi è pure sfuggito. Poi, quando sono tornato indietro, Cassio si bestemmiava come non li ho mai sentito fare, signore. Poi con Montano se ne davano di santa ragione e lì è partita la rissa e c'è stato anche lo sparo. Io più di questo non so e non posso dire. Sì, perché non sai, non puoi dire. L'essere umano è anche questo, signore. Pure il migliore di noi può sbagliare. Cassio, secondo me, sicuramente ha esagerato, però quello che scappava deve avergli detto qualcosa di veramente pesante che lui non poteva ignorare. No, ma basta, Iago, io ti conosco troppo bene. Tu vuoi sminuire la faccenda per proteggere questo tuo amico qui, ma non si può essere sempre così estremamente buoni. Esci fuori da là. Vieni qui di fronte a me, sulla tenda. Stai fermo. Cassio, per quanto io ti voglia bene, tu non sarai mai più il mio nuovo tenente. Stai in piedi! Questa punizione deve servire da esempio per tutti. Amore, che succede? Niente, Desdemona, ora torniamo a letto. Iago, tu provvedi a tranquillizzare tutti in città. Organizza delle pattuglie per tutta la notte. Voglio essere continuamente informato, chiaro? Sarà fatto, signore. Generale. Preoccupazione, io ho perso la parte immortale di me, è rimasta solo la parte bestiale, la mia reputazione. Basta, Cassio, la reputazione è un titolo, eh? Inutile, spesso ottenuto pure senza merito. Tu non hai perso nessuna reputazione, a meno che lasciate lo stesso a considerarti perduto. Ci sono tanti modi per riconquistare il generale. Lui era, sì, insomma, ti ha dovuto destituire, non appena fatto governatore qui a Cipro, lo doveva fare per motivi politici. Dico, non ce l'ha davvero con te. No, lui mi detesta. Lui mi detesta, ma c'ha ragione. Ma con un generale come lui sono stato così ingenuo, un cretino, un ubriacato, bestemmiare, ma maledetto vino, c'è il demonio là dentro. Ma chi era questo che ti insultava? Non lo so. Non l'hai visto in faccia, com'è possibile? Era buio, c'aveva un cappello, mi ricordo tutto in modo confuso. Va bene, senti, ti dico io quello che devi fare. La moglie del generale. E lei adesso il generale. Perché tu devi chiedere aiuto a lei per riottenere il posto. Perché se tu convinci lei, hai convinto lui. Otello non dirà mai di no a Desdemona. Poi lei, dietro questa sua apparenza di ribelle, sì, insomma, è generosa. Poi tu, se riesci anche a farle pensare che sarebbe meglio per Otello, perché lui è stanco, sono notti che non dorme, c'è stata la tempesta, ora deve svolgere anche le funzioni di nuovo tenente, e poi c'è anche la vostra amicizia, giusto? Hai tanti argomenti, no? Chiaro, questa è una buona idea. Sì, dai, sarebbe meglio per tutti. Chiaro, questa è un'ottima idea. Io domattina presto vado subito a parlare con Destemma. No, tu vieni qui alle 7 e te la faccio chiamare io. Sì, grazie, Iago. Prego. Buonanotte, luogo tenente. Buonanotte, Iago, grazie. Io prendo le cose e me ne vado. Sì? Sei tu? Bravo, sei stato bravissimo. Lo so, è una rissa, è una rissa, l'importante è che non ti sia fatto niente di grave. Dai, ti dico che è andato tutto bene, sei stato bravissimo, dai, siamo tutti salvi, ci risentiamo. Hai scatenato il panico, Cassio. Lascia staccato. È successo di tutto, Emilia. Cosa? La signora Desdemona sta ancora dormendo. Non lo so. Posso chiedergli un favore? Sì, certo, ma un terribile mal di testa, l'ho scesa per prendere qualcosa. Si faccia prendere sicuramente qualche medicina. Questa qua. Ecco, ne prendo una anch'io, Grazie. Bello. Cosa è successo? Iago sta bene? Iago sta benissimo, Emilia, sono io, sono dei guai. Stanotte il generale mi ha restituito. Emilia, ho bisogno di voi, devo parlare subito con Desdemona. Destituito, perché? Prego, non mi fate domande, fatemi questo favore. Ma non potete chiederlo, ma io non posso farlo, non c'entro niente. Ma è stato vostro marito a consigliarmi. Iago? Sì, cercate di chiamarvi Desdemona senza farvi sentire dal generale. Che state facendo qui? Iago? Ho chiesto alla tua moglie di farmi chiamare Desdemona. Ma ti ho detto che l'avrei fatto io. Ma il generale ora sta arrivando. Ma cosa è successo stanotte? E tu che cosa fai a svegliare a quest'ora? Mi sono svegliata per il mal di testa. Tu, Cassio, perché sei già qui? Io mi sono addormentato alla scrivania. No, Cassio, no, allora io ti aiuto, però devi fare quello che ti dico io. Ma non puoi far chiamare Desdemona mentre sta ancora col generale. Nasconditi nel bar. Decido di aiutare, perché questa notte Cassio è preparato lontano. Otello l'ha destituito, però veramente è stato uno stupido incidente e dobbiamo rimediare. Tu adesso sali su, aspetti che Otello esca dalla camera e soltanto allora di a Desdemona che Cassio le vuole parlare. E poi... Emilia, ti prego, se ce la fai, cerca di consigliare la signora ad aiutare Cassio. Io? Ma io non ho tanta confidenza con Desdemona. Emilia, posso... Emilia, se non lo fai tu, non lo può fare nessuno. Ci provo. Grazie. Chiudi la porta, vai. Senti, Cassio, non puoi fare di testa tua, perché rischi di fare peggio. Mi dispiace, Iago, non volevo arrivare così presto, mi sono addormentato qua. Va bene, io adesso... Cerco di tenerti lontano da te, no? Così con Desdemona potete parlare liberamente. Grazie, Iago. Iago, sono andata questa notte? Tutto tranquillo, signore. Senti, mi batti a macchina questa lettera per Venezia. Poi la consegno al comandante della nave. Ah, ci aggiunge anche i miei ossequi al senato, quelle cose che non so fare. Va bene. E signore, c'è da fare anche un giro sui bastioni, perché la vista è buona, però dobbiamo organizzare le postazioni, lo doveva fare il luogotenente. E va bene, dai, lo faremo voi. C'è inoltre da organizzare un piano di difesa per le coste di Cipro. C'è qualcosa che non mi convince in questa situazione. Mi sento tranquillo, sai, Iago. Generale, ma devo venire anch'io? Sì, accompagnami. Il rapporto lo scrivi dopo. Mai incontrato uno così geloso in tutta Firenze. Buongiorno, Cassio. Signora, io... Otello questa notte mi ha raccontato. Buongiorno, signora. Grazie per avermi ricevuto. Che cosa sono tutti questi salamelecchi, Cassio? Ci conosciamo da anni. Siete la moglie del generale, queste sono le procedure. Noi vogliamo lasciare stare queste procedure, luogotenente. Anzi, ex luogotenente. Appunto, Desdemona. Io sono disperato per quello che è successo. So quanto sbagliata, è imperdonabile. Ma non voglio che sia cancellato tutto il passato. Voi lo conoscete, signora, questo passato. La mia amicizia con Otello, tutto quello che ho fatto, la stima, l'ammirazione. Cassio, basta! Basta, sono Desdemona. Dimmi che cosa mi stai chiedendo. Io voglio recuperare il mio posto, Desdemona. Non farò mai più una cosa del genere. È stato solo un incidente. E poi il generale stanco, non può fare tutto lui. Io penso che neanche stanotte si sia riposato. Beh, per lui questo è niente. Vabbè, allora perché ha nominato luogotenente? Ne avrà avuto bisogno oppure no? Secondo me ne ha bisogno. Questo è un lavoro che io posso fare molto bene. Ma Cassio è una persona di fiducia. Io adoro il generale. Ho capito. Farò quello che posso. Siete gentilissima. Come? Sei gentilissima. E poi tu e Otello siete amici, no? Quindi stai tranquillo. Certo, grazie. Qui l'ha dovuto fare solo per motivi politici. Sì, certo. No, io... Cosa? Non lo so, io ho paura che questi motivi durino troppo a lungo e che lui con il tempo si abitui alla mia assenza, si dimentichi di me, del mio affetto. Cassio, Cassio, che ho fatto per lui finora. No, stai tranquillo, Cassio. Io ti prometto qui di fronte a Emilia che tu riavrai il tuo posto. Ma certo. E se faccio una promessa a un amico, io la mantengo. In tutto quello che Otello farà ci infilerò la questione Cassio. Va bene così? Generale! Stefano! Aspetta. Generale? Ma questo non mi piace. Vicino? No, niente, signora, che... No. E che ci faceva di Cassio con mia moglie? Non lo so, signore. Come va, amore mio? Io non la voglio vedere mai più qui. Non parlare. C'è qualcuno che vuole riconquistare la tua fiducia. Che ti riferisci? A Cassio, il tuo luogotenente. Per questo che hai? Sì. Amore, Cassio sta soffrendo. Ha sbagliato, ma senza rendersene conto. Non l'ha fatto con cattiveria. E poi ti vuole veramente bene. Richiamalo. Non adesso. Un'altra volta. E quando? Prestissimo. Per te, amore mio. Ah! Le vediamo stasera a cena. No, stasera no. Domani a pranzo. Domani ho pranzo a casa. Ah, domani sera. Martedì mattina? Martedì sera, mercoledì mattina, dillo tu però che sia entro 3 giorni. Amore, sentito veramente, richiamalo. Otello. Questa è una cosa, io devo lavorare, ci sono delle cose urgenti, così non riesco a concentrarmi. Come va con quel rapporto, Iago? Mi mancano ancora un po', signore. Non c'è una cosa che io potrei negare. Non c'è una cosa che mi farebbe esitare così come fai tu. Ma come? Michele Cassio? Che veniva con te tutte le volte che mi passeggiavi. Che tutte le volte che io ti criticavo lui prendeva le tue parti. Ma perché ti deve costare così tanta fatica a richiamarlo? Mi sembra veramente esagerato. Basta, ti prego, fallo venire quando vuole. Dai, io a te non nego nulla. Ma non è mica un favore che ti sto chiedendo. Io lo dico per te e per noi. Tu ti devi riposare un po'. che stai certo che se un giorno ti dovessi chiedere una prova d'amore, quella davvero potrebbe essere molto, molto difficile da esaudire. Io a te non nego nulla, però adesso mi lasci il papà solo, hm? Posso negartelo? Ciao, Tessera. Ti raggiungo a pranzo. Vai capricci perché sai che io ti obbedisco. Ciao, Iago. Signora. Che piccola disgraziata. Vada pure in rovina la mia anima, ma io ti amo. Che sei tutto di amare. Sono tornato a casa. Signore, scusate. Che dici, Iago? Michele Cassio, quando voi corteggiavate la signora, lo sapeva? Sì, sapeva tutto. Perché lo chiedi? No, per un mio pensiero, tutto qua. Che pensiero, Iago? Non pensavo che già la conoscesse. Ah, certo. Spesso ci faceva anche le frane, eh? Davvero? Davvero? Sì, davvero. Ci chiedi qualcosa? Non è onesto, Cassio? Onesto, signore? Onesto, sì, onesto. Per quello che so, signore. Tu che cosa pensi? Cosa penso, signore? Cosa penso, signore? Ma perché mi fai da eco? Come se in testa avessi un mostro troppo orrendo da svelare. Tu vuoi dire qualche cosa? Anche poco fa, quando Cassio è entrato qui, io ti ho sentito che dicevi: ah, questo non mi piace. Che cos'è che non ti piace? E adesso? Quando ti ho detto che Cassio era mio confidente, hai fatto davvero? E ti sei accigliato tutto. Hai aggrottato la fronte, come se chiudessi nel cervello un'idea orribile. Se mi vuoi bene, tirala fuori. Lo sapete, signore, che vi voglio bene. Certo che lo so. Proprio perché so che mi sei affezionato, che sei sincero, che prima di raffiare le parole tu le pesi. E per questo che le tue esitazioni mi spaventano. Guarda, Michele Cassio, signore, glielo giuro, penso che sia onesto. E questo lo penso anch'io. E ognuno dovrebbe essere quello che sembra. Certo. E quando non lo è, non dovrebbe neanche sembrarlo. Ognuno dovrebbe essere quello che sembra. Bene, quindi io penso che Cassio è un uomo onesto. No, tu non dici tutto. Cioè, parla con me come parli con te stesso quando rimugini. Se hai pensieri brutti di parlare. No, no, signore, perdonatemi. Io sono venuto a obbedirvi in qualunque cosa, ma non a dirvi quello che neanche uno schiavo. No, no. E rivelare i miei pensieri, se sono vili e bugiardi. Tu cospiri contro il tuo amico, Iago. Perché pensi che qualcuno l'ha offeso, ma non te lo vuoi dire? No, signore, vi scongiuro, io forse sono malizioso, vedo il male ovunque, spesso invento delle cose che non esistono, quindi non date retta a uno che ragiona così. Perché ora, se io vi dico quello che penso, voi perdete la pace e la salute, e io perdo la credibilità e l'onestà. Venga, merda, ma che significa? Ma il buon nome in un uomo e in una donna, signore, com'è che si dice? È il gioiello dell'anima. Se uno mi porta via la borsa, che cosa mi ruba? Dei soldi, quindi niente. Qualcosa che erano miei, ora sono suoi, prima ancora erano stati di mille altri, però, signore, chi mi porta via il buon nome, quello davvero mi getta per sempre nella miseria. Senti, io voglio sapere che cosa pensi. Impossibile, anche se il mio cuore fosse nelle vostre mani. Attento alla chiave, signore, è il mostro dagli occhi verdi che si nutre della sua stessa carne. Perché? Perché dici questa cosa? Cioè, pensi che io potrei vivere nella gelosia? Per tutto il tempo inseguire nuovi sospetti? No! Se hai un dubbio, devi agire subito. Io non perderei mai il mio tempo a farmi in testa congetture improbabili. Se sento dire che mia moglie è bella, elegante, intelligente, che parla bene, ama la compagnia, seduce tutti con la sua presenza, tutte queste cose non mi rendono geloso. Sono cose belle, che si aggiungono alla sua bellezza. Certo, lo so, non sono più così giovane, ma non per questo ho paura di sentirmi rifiutato. Gli occhi li aveva Iago, mi ha visto, ha scelto me. Io voglio vedere prima di dubitare. E se dubito, voglio le prove. E quando avrò le prove, a quel punto. Ciao, amore. Ciao, gelosia. Bene, sono contento. Adesso mi sento più tranquillo, posso parlare liberamente. In generale, quello che ti dico viene da qui. Io non parlo ancora di prove, però osservate vostra moglie. guardatela bene quando sta con Cassio. Non fatelo con un occhio troppo fiducioso, ma neanche troppo sospettoso. Voi osservate e basta. Io riconosco bene le donne della nostra città. I loro tradimenti li confessano a Dio, li raccontano certo ai mariti. Dici che è così? Ha ingannato suo padre per sposarvi. E quando sembrava tremare tutta per paura della vostra faccia, era proprio allora che vi amava di più. Infatti, era così. E qui vi voglio, signore, ma una tanto giovane da fare una tale recita col padre da cucirvi gli occhi, perché lui pensava che voi avevate usato la magia. Io sto sbagliando. Perdonatemi, anche io vi voglio troppo bene. Ma sono legato a te per sempre. No, io vedo che quello che vi dico vi ha un po' scosso. Ma neanche un po'. No, ma direi di sì invece. Lo capite? Spero che quello che vi dico nasce dall'affetto. Io vi vedo turbato, signore, per favore, non date troppo peso a questo mio discorso, perché è soltanto un sospetto. Perché se così fosse, signore, otterrei un risultato veramente meschino, contrario a ogni mia intenzione, Michele Cassio. Ma insomma, è un mio grande amico. Io vi vedo turbato. No, non così turbato, perché... Non posso non pensare che... Che d'estate sia onesta. Beata lei chi lo è. E beato voi che lo pensate. Ecco qua, signore. Anche se una natura così a volte potrebbe perdersi. Ecco, è proprio questo il punto, signore. Per esempio, se non trovo, insomma, se non sono troppo sfacciato, ma rifiutare così tanti partiti, simili a lei, per razza, classe, condizione, tutte cose che sarebbe naturale, e invece no, e non si può intuire in questo qualcosa di malato? Una natura che, come dicevate voi, si è corrotta, dei pensieri depravati. Io non conosco bene vostra moglie, però non so, io ho una paura che lei, una volta riacquistata la lucidità, possa mettervi a confronto con gli altri uomini che conosce e magari pentirsi. Guarda, ora lasciami da solo. Se viene a sapere qualche cosa, me lo fai sapere. Sì. Metti tua moglie ad osservarla. Sarà fatto, signore. Vai. Perché mi sono sposato. Questo uomo onesto vede e sa di più. Molto di più di quello che dice. Signore, no, vi supplico, non pensateci troppo adesso, fate passare del tempo. Fai conto a Michele Cassio, insomma, che lui riabbia il suo posto, è più che giusto, però per un po' lasciatelo in sospeso. Così voi avrete modo di osservarlo, vedere come si muove, anche vostra moglie, vedere se lo difende con troppa insistenza, quanto spinge, vi assilla per riammetterlo. Queste sono cose di quello lunga. E poi, insomma, queste mie paure, prendetele per quello che sono, eccesso di zero, eh? E poi... Per ora, lei, signore, mi raccomando, ritenetela innocente. Non ti preoccupare, mi so controllare, no? Vi lascio, signore. Se io la scopro indomabile, vuole volare via come un falco. Anche se magari fossero le stesse corde che tengono il mio cuore, io con un fischio la sciolgo. Se ne vada pure a cercare le prede dove la porta il vento. Forse perché sono straniero. A me non mi riesce proprio di fare conversazioni da salotto. È per gli anni che cominciano a pesarmi. E se poi... Non così tanto. Ma forse è per questo che... Per Tutar. Sono tradito. L'unico sollievo che mi resta è odiarla. Maledetto matrimonio. Io preferirei essere un rospo. vivere in una latrina sporca, puzzolente, piuttosto che accontentarmi di avere un angoletto del suo cuore mentre tutto il resto se lo guardano gli altri. Otello! Non ci posso credere. Otello! Il pranzo è pronto, stiamo tutti aspettando te. Sì. Hai ragione. Non stai bene? Ho un brutto mal di testa qui. Amore, mi dispiace. Perché hai dormito poco. Tra un po' starei meglio. Mi dispiace tanto che non stai bene. Beh, andiamo. Ci stanno aspettando. Ma questo è il fazzoletto. Beh, sì, qualcuno doveva restare col fatto che non c'è il nuovo dente. Tutto solo. Com'è andata con Cassio? Molto bene. Ma Desdemona ha preso proprio a cuore la cosa, eh? È determinatissima a convincere Otello. Tu li hai sentiti parlare? No. Lui non ti ha detto niente? Ancora no, sono andato a mangiare. Sono proprio curiosa di vedere come reagirà il generale. Mi ha detto... cioè, mi ha lasciato un incarico per te. Per me? Cioè, se devi stare vicino a Desdemona, non devi lasciarla sola. Io non so se lei voglia restare con me. Perché no? Non lo so, è un'impressione. Sembra che lei voglia vivere solo per lui, il resto non le interessa. Lo ama in un modo. Che passione, eh? Anche lui. Tanta, no? Ma sei invidiosa? Di che? Non so, sei andata giù per terra davanti a tutti. Che stupido, no? Voglio dire, mi sembra un amore molto bello, ma io lei non la capisco. C'è qualcosa in lei... che mi fa paura. No, che mi fa avere paura per lei. Non la capisco. Emiliano, non capisce nessuno. Tu per ora non puoi stare qui, ma devi andare a mangiare su con loro. Ma tu stanotte vieni a dormire. No, ok. Vai. Vado. Bene. Passa con me. Ma che succede? Vieni. Vattene. Via. Hai messo la postura. Di essere ingannati fino in fondo che saperne solo un po'. Signore! Signore! Ma che cosa ne sapevo io delle sue ore di piacere? Di nascosto. Non vedevo, non ci pensavo, mi tormentavo. Dormivo bene, mangiavo, ero allegro. Sull'acqua ci trovavo in pace di Cassio. No, mi dispiace sentire queste cose. Anche se tutto il mio esercito, fino all'ultimo soldato, gustasse ogni battito del suo corpo, io se non potessi stare felice. Invece. Adesso. Addio. Truppe impiumate. Addio, guerre grandiose, dove l'ambizione è una virtù. Addio, nitriti, trombe, tamburi scatenati, squigli assordanti. Addio, stentati regali, parate, tutto quello che è la gloria della guerra. Addio, il lavoro di Otello. Ma è possibile? Provami che il mio amore è una puttana, dimostralo, ma stai attento. Perché io voglio prove oculari, altrimenti per te è meglio essere nato cane piuttosto che sostenere la mia figlia. Ma a questo punto... Fammi vedere! Dammi una prova concreta, solida, senza pigli o buchi per il dubbio, se no la pagherai. Dio, aiutami, ti misericordia, Dio, aiutami, tu ti prego, ti scongiuro. Dio, aiutami, ti scongiuro, aiutami in questo momento, ti prego. Sei riuscito a trasformare la tua onestà in colpa. Cioè, molto schifo. Che c'entra questo mondo? Allora scordatelo. No, essere sinceri e onesti non conviene. Grazie della lezione. D'ora in avanti io non avrò più amici, visto che tanta l'amicizia provoca solo offese. Fermati, Credo che lei sia onesta. Credo che non lo... Credo che tu sia giusto, credo che non lo sei. Io voglio una prova, voglio essere certo. Signore, vi vedo divorato dalla passione. Colpa mia. Sono stato io a provocarla. Voi vorreste la certezza? Sì. L'avrete, signore, l'avrete. Ma io non ne farò più solo. Voi vorreste stare lì a guardarmi come uno spione a bocca aperta mentre lui se la monta? No, sarebbe pericoloso, penso, no? Anche un po' difficile poi farvi rivedere questa situazione. Quindi che vi posso dire? Come si può fare? Dov'è questa certezza, signore? Perché questi due fossero pure sfrenati come le capre, focosi come le scimmie, infogliati come lupi, voi, signore, non riuscirete mai a vederli. Però certo io... Vi dico anche che se alcuni fatti evidenti vi possono bastare come prova, io questo ve lo posso dare. Una prova concreta, che infedele. È un compito che non mi piace. Però visto che ormai ci sto dentro fino al collo con questa storia... Generale, ultimamente dormivo con Cassio, io avevo un atroce mal di denti e non riuscivo a prendere sonno, e invece lui dormiva e gli sento dire: Desdemona, dobbiamo stare attenti, non devono scoprire il nostro amore. Poi mi prende una mano, me la stringe, signore, grida: amore dolce. Poi, signore, comincia a baciarmi, ma con una tale furia, come se volesse strapparmi i baci dalle labbra. Poi mi metto anche una gamba in mezzo alle cosce, piange, mi bacia ancora e alla fine grida: Dio buono, ma perché stai con Otello? È mostruoso! No, signore, è un sogno! Io faccio a pezzo! No, signore! Su, non è una prova concreta! Su! Però scusatemi, ma voi avete mai visto in mano a vostra moglie un fazzoletto con delle fragole ricamate sopra? L'avevo dato io, così era il mio primo regalo, perché? Ah, non lo sapevo. Ma con un fazzoletto così, io sono sicuro che era di vostra moglie. Oggi ho visto Cassio che si asciugava il viso. Se pure mi levite quel vigliacco, perché una sola è troppo poca per la mia vendetta. Adesso io vedo che è vero. Guarda, guarda, Iago. Tutto il mio folle amore. Io lo faccio volare via. Così. È andato. Sorgi nella vendetta dal profondo dell'inferno e tu petto gonfiati del veleno dei serpenti di cui sei pieno. No, signora, aspettate, calmatevi. No, sangue. No, signora, aspettate, vi dico, potreste cambiare idea. Maglia! Come il mare del Ponto, la cui gelida corrente impetuosa mai trattiene le acque di ritorno, ma continua il suo corso in direzione della propontide dell'Ellesponto, così i miei pensieri di violenza sanguinaria mai torneranno indietro, fino a che una vendetta giusta e piena non li avrà inghiottiti. Baron Osmond, Sard, Manandel Sangemarmar, Mansar Furun Ovora, Guisso Gandhi. Mucagas. E vi do la mia parola. No, aspettate! Siate testimoni voi stelle che bruciate ardentemente lassù, voi elementi che girate intorno a noi, siate testimoni che qui Iago mette il suo ingegno, le sue mani, il suo cuore al servizio dell'ingiustamente tradito Otello. Basta che lui comandi, obbedire per me sarà un dovere. Anche, signore, se dovrò spargere sangue. Qui all'istante ti metterò subito alla prova. Entro due giorni voglio sentirmi dire che Cassio non c'è più. Signore, il mio amico è morto. Ma che lei viva. Maledetta. Luria Spoltrina, maledetta, maledetta. Io non voglio più restare qui. Devo trovare un sistema rapido di morte per combattere il mondo. Iago, ora sei tu, il mio luogotenente. Sono vostro per sempre. Ah! Mi l'avrò perso quel fazzoletto, Emilia. Ma come ha fatto? Ha delle fragole ricamate sopra. L'ultima volta mi sembra di averlo tirato fuori qui, ma non c'è. Forse l'hai lasciato da qualche altra parte? E dove? No. Il primo regalo che mi ha fatto Otello lo tengo sempre con me. Male che mio marito ha una mentalità aperta, altrimenti si sarebbe già fatto strane idee. Non è geloso per niente. Chi, lui? No. Strano. Perché? Sono pochi gli uomini che non sono gelosi. La gelosia è perché ha paura, Emilia. Come stai? Bene, tesoro. Tu come stai, Desdemona? Bene, amore mio. Vieni. Siediti qui. Dammi la mano. Ma che mano umida. È una mano giovane. Calda. Calda e umida. Una mano che dovrebbe essere privata della libertà, che ha bisogno di solitudine, digiuni, preghiere, molte mortificazioni e disciplina. Perché vedi, qui c'è un diavoletto che suda e che come al solito vuole ribellarsi. Ha una bella mano e quelle aperte. Sicuramente. Con questa mano che ti ho dato il mio cuore. Una mano generosa. Ai! Mi hai fatto male. Amore, ti volevo ricordare della promessa. Che promessa, Pulcino? Ho fatto chiamare Cassi, così ci parlo. Ho un brutto raffreddore, un vero tormento. Prestami il fazzoletto. Sì, certo. Eccolo. Quello che ti ho dato io. Ah, non ce l'ho con me. No? No. È un peccato. Quel fazzoletto era stato regalato a mia madre da un'egiziana, una maga, capace quasi di leggere i pensieri della gente. E disse che se l'avesse perso o regalato, mio padre l'avrebbe ripudiata e sarebbe andato in cerca di altri amori. Mia madre, morendo, lo lasciò a me e mi fece promettere che se mi fossi sposato l'avrei dato a mia moglie. E così ho fatto. Quindi, stai attenta. Perderlo o regalarlo sarebbe una disgrazia irreparabile. Possibile. C'è una magia nel suo tessuto. Una sibilla l'aveva ricamato e l'aveva intessuto in tintura di mummia, quella che estraggono dal cuore delle vergini. Ma è proprio vero. Benissimo. Quindi, conservalo con cura. Dio, non l'avessi mai avuto. Che vuol dire? Hai perso? Perché fai così? Non c'è più, è sparito. Ma Dio! Che dici? Ti ho detto che non l'ho perso, ma se anche fosse... Come? Ti ho detto che non l'ho perso. Allora, non lo prendo, fammelo vedere. Lo farò, Otello, ma non adesso. Questo è un modo per sviare la mia richiesta. Ti prego, fai tornare Cassio. Vai a prendere quel fazzoletto, io comincio a dubitare. Forza, se non troverai mai un uomo migliore di lui. Il fazzoletto. Ti prego, dimmi di Cassio. Fazzoletto. Un amico che deve... Il fazzoletto. E vai a piangere. Perché io... Ma è impazzito. Non l'ho mai visto così. Deve essere qualche strana magia in questo fazzoletto ed è una tragedia se l'ho perso. Ma che c'entra il fazzoletto? L'ha appena spiegato, non hai sentito? Desdemona, non puoi credere a quelle cose. E allora cos'è? Non lo so, ma non è la magia. Ma io non capisco, perché non capisco? Ma tu potrai conoscere bene. Ma certo che lo conosco bene. Sei sicura? Emilia, sì, so tutto di lui, mi ha raccontato tutta la sua vita. Ma io dico, conoscere davvero nell'intimità è diverso da quello che lo racconta. Emilia, noi... Come faccio a spiegartelo? Nessuno può capire quanto ci amiamo. Ma dov'è il generale? È uscito adesso. Vieni, Cassio, vieni. Desdemona, io ti scongiuro di usare tutti i mezzi a tua disposizione per farmi esistere di nuovo. Se quello che ho fatto è così grave, fino al punto che neanche tutto il lavoro fatto nell'esercito, il pentimento che mi sta dilaniando, neanche tutti i buoni propositi che ho manifestato finora, possono fare qualcosa per riscattarmi ai suoi occhi? Io chiedo almeno la grazia di saperlo. Cassio, non è un buon momento, tu devi aspettare. Otello non è Otello. Ma è successo qualcosa del generale? Ma te lo stavo dicendo, è uscito adesso urlando, arrabbiato. Arrabbiato? Il generale, ma com'è possibile? L'ha visto poco fa, era tranquillissimo. Ma deve essere successo qualcosa di grave, signora. La vado a cercare. Sì, Aldo, vai, grazie. Mia, ho capito. È sicuramente un affare di Stato. Ho un complotto che si sta preparando qui a Cipro. Deve essere per forza questo, sì. Un complotto? Sì. Secondo me è qualche sospetto. Quale sospetto? Ma qualche gelosia verso di te. Ma dai, Emilia, non avrebbe motivo. È sempre il motivo. Chi è geloso? È geloso e basta. Emilia, no. Perché no? Perché no? Perché conosco la sua anima, perché ho visto dentro di lui dal primo giorno, no. Ma scusa, non potrebbe essere successo che qualcuno gli ha detto qualcosa su di te e gli ha fatto venire questo sospetto? Ma che stai dicendo? Guarda che a me è successo. E secondo te lui sarebbe stato a sentire? Noi siamo diversi. Ma diversi da cosa? Cosa vuol dire diversi? Se tu pensi che... Ah, non si io? Ah, Cassio. Tu aspettami qui. Cassio. Cassio, voi che dite? Che cosa, Emilia? Ma non l'avete sentito? No, no, scusate, Emilia, non riesco a pensare ad altro. Emilia, scusate. Io non ci sto capendo niente. Secondo voi ho qualche speranza? Buonasera. Che fai qui? Disturbo? No, devi fare qualcosa? Sì, devo portare questo al generale. Vi lascio soli. No, Emilia, non è quello. Ah, non penso niente, Cassio, ci vediamo più tardi. Bianca, non può essere più ora. Non è come pensavo. Bianca, non ora. Io ti trovo ogni volta da solo con una donna e non capisco che cosa state facendo. Perché lei non lo deve sapere? Dimmelo. Dimmelo. Perché non lo sa nessuno. Non lo sa. Tu lo sai come ha trattato stanotte di fronte a Iago? Te lo ricordi di troppo sbronzo? Che ho fatto? Mi sei saltata addosso e hai urlato: bella Bianca, facciamo vedere a Iago come ti faccio urlare di solito. Mi hai trattato come una puttana. Quando io e te non facciamo l'amore da una settimana intera. 7 giorni, 7 notti, 168 ore. Ok, non va destituito. Non sei più luogotenente? No. Mi dispiace. Sono angosciato, Bianca, ma per tutte queste 160 ore di lontananza ci rifaremo. Sono 168 ore. Le ho contate tutte. 168 ore. Mica, bello. Bella, Bianca. Guarda. Già lo sento. Senti, non è più l'alloggio, quindi? Già. Dormire in caserma? Sì. È una buona idea. Sei sporcato. Sporcato, faccio. Di chi è questo? Mio. È tuo. Questo è il regalo di qualche tua nuova amica. Adesso capisco tutta questa astinenza. Oh. Siamo arrivati a questo, quindi? Bene. No, Bianca, fermi, Bianca, ora penso sei la mia amante, dici no. Ah, no? No, e di chi è allora? Mio, l'ho comprato, guarda, un bel fazzoletto, è un fazzoletto antico, un fazzoletto di valore, guarda, un bel ricamo. E ora si è sporcato. Si è sporcato. Vabbè, dai, ci penso io. Grazie. Ora lasciami solo. Come lasciarti solo? Sì, sto aspettando. Generale, non mi va che ti trovi qui. Chi stai aspettando? Generale. E perché stai aspettando il generale se ti ha destituito? Perché mi fai tutte queste domande? Accompagnami per un pezzo. No. Ti vergogni? No. Allora accompagnami. Non posso. Ma perché mi dici sempre queste bugie? Dai, va bene, Bianca, andiamo. Ti accompagno giù sul pezzo, vieni. Perché voglio vedere il generale. Andiamo, dai, su. Ma ve ne immaginate? Come? Che si baciano di nascosto. Si baciano da figo. Che stanno lì a letto un'ora, anche più, senza cattive intenzioni. Lì a letto senza cattive intenzioni. Fanno gli ipocriti davanti al diavolo. No, finché non fanno niente è soltanto peccato veniale. Però se io do a mia moglie un fazzoletto, allora? Allora, signore, è suo, ed essendo suo, lei può, penso, regalarlo a qualsiasi uomo. Se non lei è anche padrona del suo onore, può dargli anche quello. L'onore è un'essenza, non si vede, spesso ce l'hanno proprio quelli che non ce l'hanno. Però il fazzoletto, per Dio, ero così felice di averlo dimenticato. Dunque, dici. lui aveva il mio fazzoletto. Sì, e quindi? Beh, ora questa cosa non mi basta più. E se vi avessi detto che io gli ho sentito dire... Ha detto qualcosa? Sì, signore, anche se poi, figuriamoci, sarà pronto a negarlo. Cosa ha detto? Beh, che lui ha fatto... non lo so cosa, ma ha fatto... Che cosa? Ci è andato. A letto? A letto, sotto il letto, per terra, quello che volete. Ci è andato. A letto con lei. E quando diciamo che uno va a letto con qualcuno vuol dire... che ci ha scopato. Senza motivo, ma non sono le parole che mi agitano così. Funziona. Così si prendono in trappola negli studi. E anche certe ragazze caste, virtuose, vengono condannate senza colpa. È già il secondo, ne ha avuto uno anche ieri. No, non si deve toccare, si deve riprendere da solo, altrimenti gli viene tutta una schiuma alla bocca e si scatena in una furia impazzita. Io allora ti aspetto fuori. Scusami, ma devi pisciare? Sì. Allora torna tra 5 minuti. Il generale? Il generale ci penso io, non ti preoccupare. Tu torna tra 5 minuti, perché ti devo dire anche una cosa. Generale, vale la testa? Mi prende in giro. Io prendervi in giro? Però la sventura, signore, affrontatela da uomo, eh? Un uomo con le corna è un mostro. È una bestia. Allora siamo tutti mostri e bestie. Ha confessato. Oh, signore, su, siete uomo, eh? I cornuti sono milioni. Entrano nel loro letto, insudiciato da altri, convinti di avere l'esclusiva. Voi no, la vostra situazione è migliore. Pensate che inferno starsene a letto, sbaciucchiare una puttana credendola fedele. Meglio sapere, no? Quando so cos'è lei, allora so anche cosa sono io. Quante cose sei tu? Ecco qua, generale. Sentite, mentre eravate svenuto qui a terra poco fa, è venuto Cassio. Ma io gli ho detto che c'eravate voi in bagno, però gli ho anche chiesto di tornare. Voi avete finito, no? Perché ora voi vi nascondete qui, qui dietro, qui, e io gli chiederò di raccontarvi tutta la storia. Dove, come, quando, quanto spesso, la prima volta che si è fatto vostra moglie, quando se la rifarà. Voi dovete fare attenzione a tutto, a ogni sua minima espressione. Ripeto, osservate bene tutto, però signore, per Dio, state calmo. Mi senti, Iago? Sì. Io starò calmo e attento, ma anche... Mi senti, Iago? Sì. Sarò il più furioso. Bravo, però adesso zitto. Generale? Tutto bene, già che è salito in camera. Come va, provvedente? Io malissimo, Iago, non ho più questo grado, a me questa cosa mi uccide. Devi darti da fare con Desdemona. Fosse stato per Bianca, saresti già un pezzo avanti. Eh già, posso andare? Vai, dai. quella brindellona. Non ho mai visto una ragazza più innamorata. Già, sì, vero, mi ama proprio. Aspetta un po', ma lei sostiene che tu sei innamorato di lei, è vero? Innamorato io? Ma ti non era da così, Iago, ma per chi mi hai preso? Il mio cervello non è barato fino a questo punto. No, no, davvero, è in giro, si dice che siete innamorati. No, ma è quella scimmietta che lo va a dire, a me non me ne importa nulla, io ci vado a letto e basta. Oh, mi sei comunque, non so proprio come sbarazzarmi. Bianca, da dove viene questo fazzoletto? Sono stata come una stupida a prenderlo. Tu questo l'avresti comprato. Questo è il regalo di qualche mignottella. E io che te lo volevo anche fare pulire. Tieni, tagli la tua spincia, fattelo lavare da lei. Anzi, lavatelo da solo, fai quello che ti pare, a me non mi interessa niente. Anzi, sai che già lo diciamo di fronte a Iago, no? Tanto ormai, Iago, tra noi è finita. Bianca, calma, ci vediamo stasera. È certo che ci vediamo stasera. Ma c'è una caserma. No, non in caserma, non in caserma, portacela fuori. Mi portacela fuori? Sì. Ma dove? Bianca, pure questa si mette a parlare. Cassio, è veramente una idea ottima. Se tu la devi portare questa sera al Sagittario, che è un posto carino. Va bene. Ma che mi devi dire di così importante? Ormai te lo dico stasera, non puoi più stare qui. Vi raggiungo anche al Sagittario. Sì. Va bene, aspetta, Bianca. Sì, vai, ti non puoi più stare qui. Grazie. Ma avete mandato il meritevole della sua tagliato! E il faccio della fagliavista! Era il mio. Era il vostro, ve lo giuro, ma poi vedete come tratta quella deficiente di vostra moglie. Lei dà un fazzoletto a lui e fa un regalo a quella puttanella. Dovrei continuare ad ammazzare per 9 anni di seguito. Una donna gentile. Una donna bella. Una donna no, dolce. Dovete dimenticarla. E devo impiccarla! No, vabbè, signore, veramente, se siete così tenero, non lo so porcherie, lasciatela fare, perché se non ti tocca a voi, figuriamoci agli altri. Manco di sfiora! Non c'è nessuno! Nessuno! Io la faccio a pezzi, mentre mi ricordo. Cattiva. Con il mio nuovo tenente. Ancora più cattiva. Stanotte, Iaco. Io non voglio neanche discutere con lei. Procurami del veleno. La sua bellezza e il suo corpo potrebbero annebbiarmi un'altra volta. Stanotte, Iaco. Sì, signore, ma non fatelo col veleno. Strangolatela a letto. In quello stesso letto che lei ha contaminato. Giusto, giusto. Mi piace, molto giusto. E con Cassio me la sbrigo io, entro mezzanotte vi farò sapere. Ottimo. Otello. Otello, c'è una lettera da Venezia. Buonasera, generale. Ah, buonasera, signorina. È arrivata da Venezia proprio ora. Sempre a vostra disposizione. Dov'è Cassio? Michele Cassio non può stare qui, non è più un ufficiale. Ma si risolverà. Sei sicura? Come? Non bisogna dimenticare di fare questo quando... No, non dice a noi, sta leggendo la lettera. Ma come non può stare qui? Ancora no, ma Cassio riavrà il suo posto. Otello. Ho perso la testa. Perché? Il generale Otello è stato richiamato a Venezia, al suo posto è stato nominato governatore Michele Cassio. Sono contenta. Davvero? Davvero cosa? Io sono contenta di vedere che tu sei pazza. Ma che stai dicendo? Scelitale. Ma, signore, questo è veramente troppo. Chiudete le Scelitale. Agarasan in barda al Bashar, Azaskizan, Azharga Triasgash, Sismar, che non ci fuori dalla mia vista! Va bene. Se la mia presenza ti offende, me ne vado. No, perché vi scongiuro, richiamatela! Signora? Sì. Che cosa vuoi da lei? Chi? Io. Volevi che la facessi tornare, girarsi. Può fare avanti e indietro, può piangere, vedi, piange, obbediente, molto obbediente. Continua con quelle lacrime, qui mi si ordina, che recita perfetta. aspetta, di tornare a Venezia. Beh, va, via. Scrivete che eseguirò gli ordini. Tornerò a Venezia, lontano dai miei occhi. E in piazza d'Accassio. Bene. Questa sera faremo una grande cena dove siete tutti invitati. Anche voi, signorina. Benvenuti a Cipro. Capre e scimmie! Ma qui nessuno parla, nessuno fa niente. Iago, almeno tu di qualcosa. Nessuno ha il coraggio di affrontarlo. Emilia, cosa posso fare? È il generale. È assurdo. Cassio e lei insieme. Sì, certo, ma non ci ho visto niente di male. Poi ho sentito ogni sillaba di quello che dicevano. Eh certo, perché non parlavano mai a bassa voce. Mai, generale. Quindi, da quando Iago ti ha dato l'incarico, tu non ti sei mai allontanata da lei? Mai. Né ti hanno mai chiesto di uscire fuori? Mai. È strano. Tu da che parte stai, Emilia? Io sulla sua onestà, signore, sono pronta a scommetterci tutto quello che ho. Sarei pronta a farmi bruciare viva. Vi state sbagliando. Vi siete messo in testa qualcosa che non esiste. O ve l'ha messo in testa qualcun altro. Perché se è così, signore, che Dio lo fulmini quell'infame. Ma non mi credete. Ma lei è sincera, onesta. Vi adora, generale, in modo assoluto. Siete la sua unica ragione di vita, dovete credervi. Vieni di meno, vai. Parla troppo. E vabbè, che ruffiana sarebbe questa donna se non riuscisse a parlare così. Qui c'è una puttana sottile, un ripostiglio di segreti schifosi chiusi a chiave. Che c'è? Per favore, Pulcino, vieni qui. Cosa vuoi da me? Vedere i tuoi occhi. Guardami in faccia. E mentre tu fai il tuo lavoro, non ci devi lasciare da soli a fare la monta. Chiudi la porta. Se viene qualcuno tossisce o fai il tuo mestiere, no? Il tuo mestiere, fila. Ma che discorso è? Le parole sono piene di furia, ma non le capisco. Che cosa sei? Tua moglie, Otello. La tua moglie è sincera e fedele. Forza. Giuralo. Io Desdemona, giuro. Finisce all'inferno. Lì i diavoli, quando ti vedranno così celestiale, avranno paura a toccarti. Giura che sei onesta. Io non ho bisogno di giurarlo. Non ne hai bisogno perché sei falsa come l'inferno. Falsa? E con te, Con chi sono falsa? Con te? Essere cacciato da qui. Da qui dove io ho riposto il mio cuore. Da qui dove io devo vivere. O smettere di vivere. Qui è dove io traggo tutta la mia forza. Qui è la fonte da cui io traggo la mia energia. Amore. Altrimenti io non so niente. Amore. Io voglio restare qui. Amore. Qui c'è un pantano, c'è qualche loro spirito ignorante. Ma perché? Che orrore avrei commesso, a dirlo! Che hai commesso? Puttana baldracca, che hai commesso? Sbandrina schifosa! Tu mi offendi! Ah, non sei una sbandrina? No, non lo sono! Non sei una sbandrina? No, non lo sono, questo corpo è solo tuo, come faccio a essere una sbandrina? Come? Non saresti una puttana? No, non lo sono! Ma è impossibile! No! Mi chiedo scusa allora, perché vi avevo preso per quella stupida puttana di Venezia sposata con un noi abbiamo fatto, eh? Questo qui è per il tuo disturbo. Mi raccomando, però non dire niente a nessuno. Che sta facendo? Come stai? Come stai? Che ti ha fatto? Chi? Otello. Chi è Otello? È tuo marito. Non ho mariti, io non ho più niente. Ma poco la testa, ma non ti marita! Che succede? Quella cosa là, Iago. Che cosa? Quello che ha detto lei è quello che Otello dice che sono. L'ha chiamata puttana. Perché l'ha fatto? No, no, no, no, signora, oggi non piangete, vi scongiuro di che giornata. Non potete piangere? Ma lei ha rinunciato a tutto, i migliori pretendenti della città, gli amici, alla ricchezza, persino il padre, per poi essere trattata come una puttana, non deve piangere. Ma come le è venuta questa idea? No. Mi tagliassero le mani se dietro questa storia non c'è un mascalzone, eh? Una canaglia, un traffichino che insino, un pigliacco, un broglione bugiardo che per ottenere un qualche vantaggio si è messo a inventare questa calunnia. Mi tagliassero le mani, signore. Ma dai, sarebbe una cosa diabolica. No, no, io sono convinta, Otello è stato raggirato, è da qualche bellissima canaglia, ma che farà lui, miserabile? Ma passa la voce. È stato che è uno di questi. Hai girato il cervello quando hai sospettato che io te l'avevo. Basta! È su, eh? Sì, signora. Dimmi che cosa devo fare. Aiutami. Io lo amo ancora. È il mio unico amore. Sì, lo capisco. La sua crudeltà non mi fa paura. Può farmi quello che vuole, ma mi deve amare. Iago, secondo te lui mi ama ancora? Ma certo, signora. Sì. Perché per me non c'è la sanità. Sì, sì, signora, però ora basta, ci calmiamo, perché secondo me si tratta soltanto di cattivo umore. Cattivo umore? Sì, lo affliggono dei problemi di stato, se la prende con voi. Solo questo? È solo questo, signora, ve lo assicuro. Ora però basta con queste lacrime, su, è ora di cena. Andate a mangiare. Tranquilla, vedrete che tutto si risolverà. Iago. Emilia, accompagnala. O sono pazza io, o siete pazzi voi. Roderigo, che mi dici? Perché sto trattando? No, Roderigo, non potevo rispondere, ascolta. Ma sei giusto a trattarmi così? I gioielli li ho dati a Desdemona. Certo che le sono piaciuti. Non urlare, Roderigo, per favore, guarda, sono contento di sentire che ti arrabbi così. Sì, io perché sento del coraggio in te. Sì, senti, Roderigo, adesso non ho tanto tempo. Ascoltami bene. Ascolta, sei tu, adesso hai in te quello che io adesso sto percependo. Capacità, coraggio, determinazione. Dimostralo questa sera. Perché se tu non ti sarei fatta ancora di stemma, mi sputi in faccia, mi ammazzi con che ti me l'ascolta. È arrivato un ordine speciale da Venezia per promuovere Cassi al posto di Otello. Sì. No, non torna a Venezia. Lui dice che va in Mauritania e si porta dietro la bella Desdemona. A meno che non sia costretto a fermarsi qui per qualche imprevisto. L'imprevisto? Su, Roderigo, un imprevisto. Il migliore se... un bel incidente per caso. Un bel incidente? Che vuol dire? Vuol dire renderla inabile a prendere il posto di Otello, spaccarmi il cranio. Certo, non devi fare tu. Non hai il coraggio di fare quello che ti aspetta? Ti aspetta. E tu, su, forza, ascolta, piano. Questa sera Cassio gira al Sagittario con il sergente Bianca. Io andrò a trovarlo. Tutti apposti lì fuori. E quando lui esce, io farei in modo che sia verso le 11. Spara al cuore, così ce lo troviamo di mezzo per sempre. Questa qui, capito? Ci sto io anche a darti una mano. Ascolta, sto arrivando, forza. Devi essere convinto, non ci sono alternative. Thank you. non mi convince. Mi ha chiesto di aspettarlo in camera. Perché? Che vuole stare con me. Io vorrei che tu non l'avessi mai incontrato. Io invece no. Io lo amo. Va bene, qui nessuno ascolta quello che dico, ma io non riesco a stare zitta. Io sono arrivata ad una conclusione. Quale? Tuo marito è convinto che tu e Cassi avete una relazione. Io e Cassi? Sì. Emilia, con tutta la buona volontà. Ne sono certa, Desdemona. E sono certa anche di un'altra cosa. Da quando lui ti ha dato lo schiaffo non può essere successo niente. Niente che possa avergli fatto cambiare idea. Quindi questa sua calma è solo apparente, quindi ancora più pericolosa. Basta, sì. Non andare. Basta, sono stanca, non è mai. Ascoltami. Il marito di una mia amica all'improvviso impazzì di gelosia. Si era convinto che la moglie avesse una storia con un suo amico solo perché qualcuno aveva messo in giro questa voce. Lui la insultò, la ammazzò di botte. Un giorno la chiuse anche dentro casa, ma questo non sembrava bastare. Sai cosa ha fatto lei? Cosa ha fatto? Se n'è andata. L'ha lasciato solo. E lui da solo, piano piano, ha riacquistato la lucidità e ha capito. Ora questi due sono di nuovo insieme. Questa tua amica sei tu. Te l'ho già detto, io e lui siamo diversi. Ma io ho la sensazione che tu, dentro di te, profondamente voglia... Che cosa vuoi veramente? Natale, il mio unico amore. All'uscita c'era questo tizio con la barba e il cappello. Sì, pare che si chiami Roderigo. Tira fuori la pistola e spara a Cassio, ma non lo prende. Allora comincia a scappare. E solo a questo punto parte il secondo colpo che colpisce Cassio. Poi Iago corre dietro a questo che sta scappando, questo Roderigo, e lo uccide. Non può essere stato Roderigo a sparare il secondo colpo, perché stava scappando. È stato per forza qualcun altro. Bene, sergente Bianca, vedo che ti ricordi tutto esattamente, ora scrivi il mio rapporto. Cassio, questa ferita non mi piace, qua ci vuole un medico, tanto dobbiamo aspettare il generale. Emilia, scusami, vuoi accompagnare tu in infermeria? Sì, certo. Grazie. Cassio! Ah, Iago! Iago, quel colpo era diretto al cuore. Sai come mi sono salvato io? Come? Con questa. La custodia del fazzoletto. Io me lo sentivo che questo fazzoletto aveva qualcosa di magico. Ha deviato un colpo. E ora è bucato. Cassio, dove avete preso questo fazzoletto? L'ho trovato. Andate adesso. Bianca, scrivi tu? Sì. Allora, no, mi manca soltanto un elemento. Tu ti ricordi esattamente da che parte è arrivato il secondo colpo? No, signore. Come mai mi chiami signore? Sono solo Iago. È questo agguato che mi ha un po' scossa. Siamo soldati, non dimenticarlo. Certo. Senti, sei pronta per scrivere? Sì. Tutto fatto, signore. Come l'hai ucciso, Iago? Alla fine ho usato il silenziatore. Bene. Io invece ho cambiato idea. Lo farò così. A strangolarla ho paura di non arrivare fino in fondo. posso capirlo, signore. Jaco, fammi un favore, vai in camera sua. Dille di venire qui. Va bene. Sì. Otello. Entra, tesoro. Che fai? Nella città di Halab, durante un lungo assedio, i soldati combattevano per ripristinare nel mondo purezza, giustizia, verità. Portavano sempre con loro una fiala, da usare solo nel momento più difficile. È in lettera di un fiore del deserto, di cui è proibito dire nome. Per pochi istanti i tuoi sensi raggiungono il massimo splendore. E poi finalmente abbandoni questo mondo di inganni, di menzogne. È per me? Il fazzoletto che ti avevo dato, il mio primo regalo, tu l'hai dato a Cassio. A Cassio? Sì. Non è vero, te lo giuro, non l'ho mai dato a Cassio. Fallo venire, ti dirà che non è così. Sono le ultime parole che ci diciamo. Non buttarle. Non l'ho mai dato il tuo fazzoletto a manchile Cassio. L'ho visto in mano a lui. L'avrò trovato, non gliel'ho dato io. Fallo venire, confesserà che è così. Ha confessato. Che cosa? Che voi due siete stati a letto insieme. Cosa? Più volte. E che tu sei innamorata di lui. Non è possibile, voglio sentirlo da lui. A chiudergli la bocca ci ha pensato Iago. È morto. Sì. Dovevi chiamarci. Piangi per lui. Davanti a me. Io piango per te. Piango per questo tuo dolore senza rimedio. Se è vero. Marito. Tuo marito. Perché stavo andando a letto con Cassio. Con Cassio, sì. Mio marito. Sì, è stato lui ad avvisarmi. Mio marito. Che cosa? Questa cantina l'ha detto tuo marito. Dice che ti stavo andando a letto con Cassio, mio marito. Lui, tuo marito, non capisci le parole. Tuo marito, il mio caro, onesto amico. Chiamo. C'è lui, la cara, che sto aspettando. Posso da soli ma marcire un po' alla volta. Mette fino a midollo. Emilia. Iago, smetti a scivolare il padre. Dice che tu gli hai detto da solo ognuno tradiva. Ma io non ti credo, tu non sei una canaglia. Parla, mi scoppia il cuore. Gli ho detto solo quello che pensavo. Che lei ha dovuto con Cassio, tu gli hai detto. Sì. Signora, io glielo dico, no, adesso stai zitta. No, adesso io non sto zitta, io parlo. Io devo parlare, è stata morta, assassinata, lei l'hai uccisa, tu con i tuoi racconti. Era un infame, io lo sapevo. Io avevo sospettato. Basta, Emilia, adesso esci di qua, su, esci da lì. Io non obbedirò mai più a tuo ordine, cane. Sì, tu adesso butta. Non lo sa, lei con Cassio aveva commesso mille volte l'atto della vergogna. Cassio l'ha confessato per ripagarlo, le aveva dato il mio primo regalo d'amore. L'ho visto in mano a lui, il fazzoletto. Il fazzoletto, no. No. La vita così, per amore. Ma tu, perché? Non chiedete niente, generale. Quello che sapete, sapete. Pronto, sono l'attendente Iago. Il generale Otello, sua moglie Desdemona, il nuovo governatore Michele Cassio, sergente Bianca e mia moglie Emilia sono morti. Aiuto.